Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Ciao grande Alessandro Magno. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Slumber Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. Si istituisce il reato di vitalizio e il c'è poco da ridere, colleghi. Chiunque maturi per sé vitalizi o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate dallo Stato o da altri enti pubblici, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni. L'equiparazione del parlamentare all'impiegato statale, che è di fatto contenuto nella proposta di legge, esplicita la volontà di indebolire la libertà e l'autonomia della funzione parlamentare. Il tutto perché? Per dare un palcoscenico a Grillo e al PD, per vedere chi è più populista, per dare questo palcoscenico. Io il palcoscenico non glielo do. Noi abbiamo presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità spiegando proprio questo, che noi i vitalizi li abbiamo già aboliti seriamente 5 anni fa. Che lei dice, si arriverà al Parlamento cubano prima o poi, cioè che soltanto i ricchi, stia attenta a quello che le dico, perché vedrà come andrà a finire, soltanto i ricchi entreranno in Parlamento perché se lo potranno permettere. Signori, se ne sentono ovviamente di tutti i colori ora sulla questione dei vitalizi, di tutti i colori. Perché è in discussione il tentativo del ricalcolo contributivo dei vitalizi. Oggi la proposta di Chetti verrà votata alla Camera, ma tanto state tranquilli, tanto verrà fermata al Senato. Quindi stiamo parlando un po' del nulla, però oggi è anche l'apertura del Corriere della Sera, perché ci sono tutti i calcoli. No, si tratta di ricalcolare col contributivo anche per il pregresso alcuni vitalizi che obiettivamente sono un po' sbilanciati, non tanto nel principio ma nel quantum, cioè quanto hanno versato in passato, soprattutto accadevano queste situazioni, quanto hanno versato in termini di contributi e quanto prendono e prenderanno nella vita. Ieri Mario Giordano ci dava il caso del dottor Gambale, che è entrato in Parlamento a 28 anni, ha fatto 4 legislature e si trova a 45 anni con credo 5.600 euro di pensione. Ha versato circa 200.000 contributi, ne ha già ottenuti 1.200.000 e lunghissima vita al dottor Gambale, che magari arriverà a 90 anni, 100 anni e avrà preso a quel punto, a fronte di 200.000 versati di contributi, che ne so, 2, 3, 5 milioni di euro. Ecco, queste situazioni vanno magari ribilanciate, no? Che dite, ribilanciate? Non c'è macelleria sociale, non c'è attacco alla libertà del parlamentare, onorevole Tabacci. Nessuno vuol toccare quella libertà sacrosanta, nessuno, nessuno, nessuno. Solo limare un pochino il portafogli, limare un pochino il portafogli. Tutto qui. Alle 6:34 minuti siamo qui. Questo è 24 mattino, siamo a mercoledì, domani è giovedì, dopodomani è venerdì e poi siamo in vacanza. Ciao ciao, ciao, ciaone, ciaone. Ma signori, ma stravince su tutti, stravince su tutti. Abbiamo sentito Brunetta, Tabacci, Baldelli ironizzava dicendo: istituiamo il reato di vitalizio da 2 a 8 anni di carcere per il vitalizio. Vabbè. Mamma, Ferdinando Adornato stravince. Ormai sparare contro la politica è come sparare contro la Croce Rossa, si dice. Ebbene, io credo che oggi sia un dovere difendere la Croce Rossa. Questi parlamentari non possono in nessun modo essere uguali agli altri cittadini, perché rivestono una funzione che non può essere paragonata a nessun'altra funzione in giro per l'Italia. Capito, non sono uguali. E poi ha anche aggiunto il punto fondamentale, che il vitalizio nacque per liberare il parlamentare dal lavoro, dalla dipendenza dal lavoro. Voi capite che insomma. Ma come? Dobbiamo pure campare. Lo so, caro presidente De Luca. Lo so. Signori, signori, voglio salutare uno che vediamo se come la prende, se gli diciamo che lui non lavora in fondo. È l'onorevole Maurizio Bianconi, il nostro onorevole. Buongiorno, come stai? Buongiorno. Maurizio? Bene. Tutto a posto, eh? Sì, capito. Tutto a posto. È vera questa cosa che il vitalizio nacque per liberare il parlamentare dalla dipendenza dal lavoro? No, il vitalizio nacque per consentire ai parlamentari di avere, diciamo così, una certezza di futuro. Poi ci sono state tutto quello che voi sapete, sì, cioè sì. Gli eccessi, che poi dalla parte si va ad eccesso dell'altra parte. Sì. Io ho fatto il parlamentare 10 anni e il consigliere regionale 13. Ma come solo 10? Pensavo di più. No, sono fatto 2 legislature di parlamentare e ho fatto 3 legislature ho sempre fatto l'avvocato, non ho mai smesso di consigliere. E quindi ho sempre lavorato 2 giorni alla settimana e ho tenuto lo studio aperto. Attualmente mi sono messo in uno studio, avevo 7 avvocati, ora siamo 2, perché se uno fa un lavoro ne può fare 2 bene. Sì. E quindi, però comunque ho sempre tenuto lo studio aperto e ora mi ci rimetto di buzzo, perché ricomincio a fare l'avvocato ancora, e a me questa cosa del vitalizio mi fa un po' ridere. Ma adesso la parliamo. Ma ne parliamo. Una cosa che gliela volevo dire, Milan. Sì. Io ho versato circa 500.000 di contributi tra l'uno e l'altro. Però. 470.000 euro In 23 anni. Prenderò 1.230 o 1.250 euro dalla, al mese. Dalla Camera. Ho 70 anni. Faccia lei. No, dalla Camera. Dalla Camera. No, tra tutte e due, perché la Regione Toscana il vitalizio l'ha già abolito. Ma non per, non per il pregresso, immagino. No, per il pregresso, per tutto. Io ho perduto tutti questo 500.000 di euro e forse riavrò 100-150 mila euro dalla Regione Toscana. Non è andata benissimo, ma infatti mica sono tutti uguali. Ma infatti non sono tutti uguali. Pensi che io ho fatto le battaglie sia in regione sia in Parlamento contro il vitalizio, ma mi hanno imposto di versare lo stesso i contributi. No, no, ma infatti, ma ricordiamo la questione, però insomma adesso appunto ne parliamo, Bianconi, perché non tutto è andato male, però c'è gente che ha versato appunto, no, ho citato Gambale. C'è una disparità di trattamento che è veramente impressionante. Ci sono i casi del passato clamorosi, lo sappiamo, di gente che è stata un giorno. Che hanno fatto parlamentari un giorno vengono repressi. Però tutto questo era già stato in qualche maniera, come posso dire, perché l'avevano già abolito il vitalizio. Ma come abolito? Sì. Cioè, per il passato no, quelli continuano a ritirare il vitalizio. L'avevano già abolito, poi c'è da riequilibrare situazioni veramente è quello, infatti. Però quando senza lì con la falce schienaia, dopo non è che si fa, diciamo così, è chiaro. Vabbè, aspetta. Da l'una all'altra parte è una questione è emblematica ma limitata. Va bene, Bianconi. Però fammi salutare Silvia Brasca, che è con noi del TG della 7. Eccoci. Ciao Silvia. Allora, è bello perché vi abbiamo sbrandate alle 6:30. No? Ma tanto, perché sai che siamo svegli. No, io so che siete svegli e quindi questa cosa insomma, si può fare. Le allodole, dai gufi alle allodole. Dai, apriamo il Parlamento. Su. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente, accorrete al Parlamento! Abbiamo barman generosi. La verità è che bisognerebbe farlo questo in 3 righe, in 3 secondi, senza dibattito parlamentare. Io l'ho detta ieri, i bianconi si rizzeranno tutti i capelli, queste cose. Cioè, la verità è che viene reso tutto ridicolo e si alimenta il populismo perché c'è quello che ironizza dicendo mettiamo il reato di vitalizio, Beppe Grillo che va lì e che fa i Versace e lo show assistendo alla camera, quelli del PD che se ne escono con sono atti di macelleria sociale, cioè ognuno spara puttanate. E allora poi il populismo si alimenta. Se ci fossero invece una cosa di 3 righe, l'ufficio di presidenza della Camera comunica che sono state ricalcolate e sono state ristabilite le equità su alcune posizioni che sono evidentemente squilibrate, cioè gente che ha versato 10 e ha già ottenuto 1000. Ora basta, punto. No, Silvia, punto. Senza discussioni, no? Titolo del Sole 24 del mattino e sì. Sole 24 ore dopo, fate presto, non ne possiamo più, soprattutto perché il PD ha trovato un altro spunto per dividersi. Discussione alla Camera, il PD si divide, ma quante volte abbiamo visto questo titolo? Davvero, fate presto, va bene per tutti, cioè basta, sulla questa questione di questi vitalizi davvero non ne possiamo più, perché il problema è quello è quello di Tito Boeri, non è quello dei vitalizi, no, è quello che va sottolineato Tito Boeri su certe pensioni. Poi, per carità, questo è importante, ma fate presto, non è una cosa. Ma fatelo. Ma senza tutto questo dibattito. Ma poi Bianconi, ma tu la voti questa legge o no? No. Non ci sono perché sono in malattia io fino a settembre. Oh mannaggia, ma che è successo? Però non la voterei. Voterei perché riduce il parlamentare a impiegato statale e lo mette sotto l'INPS. Non ritengo che sia una cosa giusta. Ritengo che sia una cosa giusta quello che diceva lei, e cioè che ci sono delle posizioni squilibrate che vanno riequilibrate. Ma è fantastico, perché io gli do del tu, lui mi dà del lei, cioè per mantenere distanze, fa il parlamentare. È che mi insegnavano che anche quando siamo abbastanza amici, quando c'è il pubblico, dobbiamo dare l'impressione di essere in una festa in casa. Ma noi se ci dobbiamo mandare a quel paese, allora capisci? Qui si fa un pochino si ipervalorizza la ragione della Brasca, ipervalorizza una cosa che è tutto sommato marginale. Ma infatti, perché ricordiamo che riguarda tipo lo 0,2% della spesa pubblica se si dovesse fare, e infatti andrebbe trattata così, 3 righe, basta farla. No, ma a me se mi vedessi i soldi, io figurati Li riprenderei. Potremmo fare. Quant'è che dobbiamo ridarti? 470. Circa 470.000 euro. 470.000 euro. Vedi tu, tra Silvia. Tra me e Silvia Brasca. No, tra tutte e due. No, perché fra regione e Stato. Fra regione e Stato. No. Silvia, tu quanto puoi mettere? Sì, no. Tu quanto puoi mettere, Silvia? Perché Io due urini. E poi questo svilimento della posizione del parlamentare. Sì, però lo svilimento, ma dire Ferdinando Adornato che tutto è nato per liberarci dalla dalla dipendenza dal lavoro, cioè poi dopo uno dice fai gioco facile a dire quindi il parlamentare non lavora, perché insomma, no. L'hai detto tu, non è che ho capito, è così. Va bene, dai. Ma tanto Silvia, sai che tutto verrà arenato al Senato, cioè tutto. La prossima si ricomincia. I prossimi che andranno su diranno la prima cosa è ricalcolare i vitalizi. Stavolta lo faremo. I problemi che ci sono. Vabbè. E poi soprattutto la prima gallina che canta avrà fatto l'uovo. Certo, infatti sarà così. E mia e tua, un brutto spettacolo. Sì. Ma signori, dobbiamo andare un attimo al traffico, perché poi c'è anche la questione della razza italiana, che poi parleremo un po' di politica. Pisapia non ne può più già di D'Alema e Bersani. La sinistra è incredibile, ragazzi, si stanno frantumando. Pisapia ha detto ai suoi collaboratori: non voglio più fare la statuina di D'Alema e Bersani, questi di MDP mi hanno scocciato. Tutto per l'abbraccio alla Boschi. Maurizio, tranquillizza, ti chiederò ovviamente se l'abbracci anche tu. Tra un attimo, l'abbracceresti anche tu in una festa del PD. Vabbè, vediamo, tra un attimo. Milan, manda il traffico. Devo entrare in tangenziale. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta. Ciao Alino, ma con tutti i cazzi che ha Alfano, sta a pensare al congiuntivo, ma per favore. Alfano, sei cosa inutile, pane perso, non sei né carne né pesce. Milan, ma lo sai com'hai fatto a far fare utile il primo anno Cattaneo? Mettendo 5.000 persone in cassa integrazione, così sono bravi tutti, pure la Ferilli. When there's no one left to fight, boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. When there's no one left to fight, boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. La nostra potenzialità espansiva è del 10%. Questo ci è stato detto da scienziati della demoscopia, non da scienziati della politica che possono fare analisi astratta. Signori, io da 24 ore che non mi riesco a riprendere da questa uscita di Alfano, cara Silvia Brasca, no? Gli scienziati della demoscopia danno Alfano al 10%, ragazzi, ma guarda, Bianconi, chi sono questi scienziati della demoscopia? Non lo so, saranno quelli che non ci indovinano mai, sono stati No, scienziati, scienziati della demoscopia. Vabbè. Capito? Abbiamo anche questo. Cioè, siamo ormai a Odeon, tutto quanto fa spettacolo. Siamo al di là del bene e del male. No, ragazzi, gli scienziati della demoscopia mi sembra veramente una cosa fantastica. Fantastica. Va bene, signori. Comunque, allora, avete visto la Pisapia? Fa bene, caro Bianconi. Allora, tutto per un abbraccio. Cioè, capito? Sì. Tutto per un abbraccio, ma abbastanza affettuoso, col sorriso. Ci vuole un po' di stomaco, francamente, però bisognerebbe dargli il premio per lo stomaco da abbracciare. Ma perché? Perché è una cosa. Perché a me non mi è mai piaciuta, non mi piace come persona, come tutto, insomma, non posso mica fare niente. Ma ho capito, ma vedi che anche tu sei come Tommaso Montanari, bene, quelli del disprezzo. No, il disprezzo fisico. Dare un valore politico a un gesto così è una sciocchezza tipicamente comunista. Proprio comunista old fashion. Mi sembra proprio una, scusate il termine, una stronzata, però voglio dire, l'ha fatto e se vuol dire che gli andava di farlo e vuol dire che ha lo stomaco idoneo per farlo, però non ha significato politico, insomma. Qui siamo al di là del bene e del male, che è un'altra situazione, cioè la sinistra sembra che ricerchi col lume, con la lanterna le cose ma questo intorcimento e questa frantumazione per un abbraccio, verrebbe da pensare, meno male che c'è stato questo abbraccio, almeno se è chiarito, voglio dire, perché se si litiga per un abbraccio si sarebbero scannati per cose un po' più serie purtroppo per loro, perché una sinistra unita e che faccia il lavoro della sinistra a una democrazia sarebbe utile. Ma certo. Purtroppo per loro hanno questa mania di essere sempre in lite l'uno con l'altro. A sinistra una volta c'era il Partito Comunista dei Lavoratori, il Partito Comunista Marxista-Leninista, il Partito Comunista degli Operai, il Partito ce n'era 7-8, avevano 50, avevano 70 partiti. Sì, sì, sì. E tutte le volte che il Partito Socialista ha provato a riunirsi, poi si è ridiviso in 4-5 partiti. Insomma, c'è tutta una storia di divisioni. Perché? Sì. Perché, secondo almeno la mia impressione, la sinistra è dogmatica e quindi, essendo dogmatica, si scinde, non si sistema mai. Non so, sentiamo un po', perché Silvia, tuo marito, che chiaramente segue tutti i talk show, sappiamo, e avrà, come dire, un... È imbestialito. Ecco, vedi, imbestialito, avrà tutta una visione su questo... Intanto, secondo me, è anche pretestuoso, perché qualcuno... Insomma, ha anche cercato probabilmente di fermare Pisapia, perché ha capito, ecco, quindi mettergli un po' il bastone tra le ruote. Facciamo un passo indietro. Uno che va ospite a casa d'altro, una persona gentile ed educata come Pisapia, ci va col muso, c'è una distanza d'età ed è una persona davvero affettuosa. Poi parliamoci chiaro. Poi il referendum, cioè aveva di fronte una per il, che appunto che portava avanti il sia referendum, che lui ha abbracciato, avendo contro il 95% dei suoi. Quindi probabilmente su qualche cosa un idem sentire c'era. Ma e certo. Poi se c'è una persona non maliziosa, proprio non maliziosa, è Pisapia. Ma poi diciamolo, allora, francamente, Silvia, anche... Ma Montanari, ma io ieri mattina sono impazzita quando vi sono niente, Monta... della Ziga. Tra l'altro, sì, ieri Montanari... E oggi Ferrara sul foglio lo scuoia, ha paragonato questa storia a un quadro in cui c'è una zingara che ruba l'anello, cioè la Boschi e la zingara che ti fa finta di leggere la mano e ti ruba l'anello. Poi diciamolo francamente, Silvia, tuo marito anche lui l'avrebbe abbracciato la Boschi, quindi non è che adesso... No. Ah, è caduta la vasca. Su questa cosa è svenuta, ha detto vado subito andare a sistemare i conti con il marito. Montanari è l'esempio classico della rovina della sinistra, quelli che fanno i comunisti senza essere mai stati, no? Tommaso Montanari si è fatto un'intervista dicendo ci vuole proprio... La Boschi è più che un'avversaria. Ho capito, però anche tu, Maurizio, mi hai detto ci vuole dello stomaco ad abbracciarla. Cioè, capisci? Un po' di disprezzo ce l'hai anche tu. Questa è una questione personale. Però sul filo politico è una reale puttanata. Ragione la Brasca. Questa qui è una persona gentile, cortese, affabile. Impagabile, ha fatto una cortesia. Guarda che bello oggi il babbo, il nonno della Boschi l'ha abbracciato affettuosamente, non c'è mica niente di male. Ma infatti, ripeto, anche anzi, andrebbe applaudito per lo stomaco che ha avuto. Per lo stai croni. Tra l'altro, oggi il manifesto è una questione politica, ma poi da Montanari, ieri Bordin a Radio Vaticana è stato impagabile nel sentire Montanari. Tieni conto che oggi il Manifesto fa vedere gli abbracci di Pisapia, c'è cioè in prima pagina un abbraccio tra Pisapia e Bersani, a pagina 2 un abbraccio tra Pisapia e Speranza, quasi quasi ci sarà anche un abbraccio tra Pisapia e Bianconi. Sì, ma tra vitalizi e abbracci veramente siamo sotto siamo al disastro. Senti questa la questione della razza, cioè siamo l'onorevole Prestipino del Partito Democratico è intervenuta a Radio Cusano Campus e sulla questione del Dipartimento Mamme è partita la frizione, ecco, diciamo così. Un paese che rischia tra qualche decennio di non avere più ragazzi italiani, lo dico senza polemica, però se uno vuole in qualche maniera continuare la nostra razza, come se vogliamo dire la cosa, beh, è così. Diciamola così, insomma, la razza. Vabbè, io credo che l'onorevole Prestipino non volesse assolutamente riferirsi a cose. Se era di casa Pound, l'avevano pelle. Ma l'hai sentito il tono? Non le veniva la parola, diciamo così, come dire, la razza, ecco, cioè, no, l'è venuto. Ma si capisce, non mi sembrava una di dire dobbiamo continuare con il progresso e la razza italiana, cioè non l'ho sentita dire con quel tono. Infatti la voce l'aveva un po' da massaia. Sì, no, ma da massaia, che vuol dire da massaia? Però, insomma, gli fanno un'intervista, non si sa esprimere bene perché non è abituato. Non è abituato. Mica come Bianconi che quando va a Radio Cusano Campus fa delle performance, signore. Radio Cusano Campus mi fanno parlare più di te, però anche te mi fai parlare. Più di me. Ma siete gli unici due in Italia che mi fanno vabbè, allora siamo secondi in classifica come minutaggio all'onorevole Bianconi. Cara Silvia, ti abbiamo recuperato, sì. Qua. Vabbè, questa roba della razza mi sembra una frizione scivolata via, dai, su. Ma è perché secondo me il Dipartimento Mamme che porta sfiga, sì. è un'idea che poi non porta quei frutti che dovrebbe avere. Comunque la parola razza la lasciamo ai cani una volta per tutti. Sì, anche quelli che mordono veltroni. Sì, va bene, anche i cani che mordono veltroni, anche a quelli. Va bene, signori, è il momento del premio Giachetti. Vi tocca, è il terz'ultimo, prima. Hai la faccia come il culo. Ecco, signori. Avete la faccia come il culo. E allora, dai, cara Silvia, il premio Giachetti, a chi vuoi assegnarlo quest'oggi? Haftar e Serraj. Ah, cioè quei libici, quelli che a Parigi hanno fatto, secondo te, a questo punto una finta stretta di mano? Sì, non lo so. Non voglio vedere quanto dura quella stretta, quell'abbraccio. Sì. Ecco, quelli sono gli abbracci veri e le strette di mano vere. Non so, sono molto scettica. Va bene. Tu, caro avvocato Bianconi, onorevole Bianconi, che dice? Io la faccia come il culo, questa volta la do a Berlusconi. Ecco. Sai che oggi c'è un'intervista a Veronica Lario. Maria Latella intervista dopo anni Veronica Lario sul film, sul Messaggero. Sì, però non dice, non ti dico niente, non parla di vergini, draghi, niente di pruriginoso. Quando ha dichiarato io non ho parlato Costa. Con Costa, Questa è più grossa di quando disse che a Laminetti gli era piaciuta. Perché era laureata e sapeva le lingue. Ecco. questa supera la vicenda Minetti, va bene. E allora dai, vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da... Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta... Anquo Alessandro Mina e leggerà i giornali come uno che legge i giornali e che tanti schei 24 mattino. Eccoci qui, sono le 7:15 minuti in punto nel momento in cui siamo alla rassegna stampa di 24 mattino, cioè lo spazio in cui leggiamo cosa ci propongono i giornali che sono in edicola. E allora, caro Peter Bescapè, andiamo a vedere che cosa offrono. Non c'è niente di più divertente